Ogni anno la Luna si allontana dalla Terra di 4 centimetri. Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata sull'Arcadia. Grazie a Radio Big World. Questa per me è la prima registrazione del 2018. Quindi auguri. Auguri, buon anno a tutti, anche se è tardi per dirvelo, però è uguale, non importa. E partiamo con i ricordi. I ricordi, perché i ricordi? Noi dici anno nuovo, i ricordi. Perché come siamo cresciuti, quello che ci hanno insegnato, no? Abbiamo detto che la maggior parte delle cose è ridicola. Come Super Quark. Non so se avete presente Piero Angela e il suo figliolo. Sono dei, come mentono loro, penso non mente nessuno, e dato che sono cresciuto insieme a tanti altri ragazzi, insieme a Super Quark, mi ricordo la mattina andavamo a scuola e parlavamo, hai visto ieri sera Super Quark, il coso quello, e come ho detto forse in un'altra puntata, mi ricordo benissimo che ci hanno portato nell'aula per guardare un filmato, un film, e c'era per l'appunto un filmato di Super Quark. Di che parlava questo filmato di Super Quark? Questo ero alle elementari, quindi come abbiamo detto da piccolo, l'indottrinamento viene iniziato da quando nasci praticamente, e viene poi portato avanti dalla scuola inconsapevolmente da professori, perché sono all'oscuro di tutto, ti dicono quello che gli è stato insegnato che ti devono dire, se fanno una cosa diversa da quello che ti devono dire vengono mandati via. Quindi insomma, e cosa c'era in questo filmato? Allora, era un filmato di Super Quark dove si parlava della fine del mondo. Ora, a dei bambini si parla della fine del mondo, non lo so. C'ho miei dubbi, mi fa delle domande. Mi figlio che libertà, bevo anche un sorso di caffè, ovviamente decaffeinato, perché sono anche troppo nervoso di mio. Ma questo non vi interessa. E in questo filmato c'era il sole, che praticamente raccontava la storia di come sarebbe finita la vita sulla Terra. Che è un argomento allegrissimo per un bambino di 6, 7 anni, 8, ti fa proprio essere felice ed essere vivo, ti fa sentire. Comunque, e si vedeva il sole e raccontava, spiegava il sole che tra 5 miliardi di anni, milioni di anni, ora non ricordo, però diceva che sarebbe esploso. Sarebbe esploso e raccontava, spiegava praticamente tutte le fasi di come sarebbe arrivato a esplodere, e si sarebbe morto, sarebbe diventato enorme, si sarebbe gonfiato e sarebbe diventato rossissimo, si sarebbe tutti morti dal caldo, poi sarebbero morti, prima sarebbero morti tutti gli animali, poi noi, perché non ci sarebbe né acqua né cibo, perché sarebbe evaporata tutta l'acqua e non ci sarebbe stato più cibo, perché sarebbe stato impossibile coltivare, cacciare e altre cose. E questo tra miliardi di anni, Dopodiché sarebbe esploso e fine. Ciao. Ora, detto questo, quali prove abbiamo? Cioè, è una storia inventata e raccontata così. Perché quello che vedo io è la ripetizione ogni anno. Quello che vedo io è la ripetizione di un ciclo. È un ciclo che si ripete di continuo. E questo da quando c'è ricordo umano, da quando l'uomo ha iniziato a prendere nota e prendere appunti di quello che gli succedeva intorno. E cosa gli succedeva intorno? Le fasi lunari, le stagioni, e ogni anno si ripetono le stesse cose. La stagione della pioggia, gli uragani, si ripetono, sono cicli, come i vulcani. Anche i vulcani hanno il loro ciclo, fanno il loro ciclo. Tutto, come le tartarughe vanno a deporre le uova in un determinato periodo dell'anno, dice, come fanno a saperlo? Lo sanno, l'istinto animale, le fasi della luna, per l'appunto, che condizionano i cicli di tutti. Noi siamo gli unici che ignoriamo i cicli della Terra e facciamo quello che ci pare e piace. Però siamo affetti anche noi dai cicli che ha la Terra, che si continuano a ripetersi anno dopo anno. E però ci viene detto che lo spazio e tutto quello che abbiamo intorno, il Sole, la Terra, i pianeti, che ci influenza tutti in qualche modo, cambiano continuamente. Però possiamo osservare sulla Terra gli stessi identici cicli senza nessuna variazione, puntuali come un orologio. E com'è possibile se, come mi dice il figlio di Piero Angela, che la Luna si allontana di 4 cm dalla Terra ogni anno? Qualcosa ha rallentato la rotazione terrestre. Torniamo indietro di miliardi di anni, quando la Terra era ancora composta da roccia fusa. Ruotava così velocemente che il giorno durava meno di 5 ore. Perché la rotazione terrestre è cambiata nel tempo? Dipende tutto dalla Luna. Com'è possibile che se si allontanasse? Quanti anni è che hanno detto che c'è la Terra? Miliardi su miliardi su miliardi su miliardi. E la Luna in questi miliardi di anni, se ogni anno ha fatto 4 centimetri, ogni anno i cambiamenti che dovrebbero avvenire sulla Terra come sarebbero evidenti? La Luna in preistoria era molto più vicina alla Terra e poi si è gradualmente allontanata. Ma si sta ancora allontanando da noi? La risposta è sì. Insomma, 4 centimetri, uno dice, sono pochissimi, va bene, ma dovrebbero cambiare tanto i cicli della Terra, dovrebbero cambiare i tempi. Insomma, ci sono calendari Maya e Aztechi che sono perfettamente puntuali, ai minuto, sia con la Luna che col Sole. Se cambiasse qualcosa fuori nello spazio, ammesso che ci sia, si dovrebbe notare in qualche modo, o per quello che succede nel mondo, quello che succede, gli agenti atmosferici, gli effetti meteorologici, i cicloni, gli uragani, sono tutte cose che si ripetono ogni anno, ne hanno dato un nome, sanno già quando arriverà. Perché? Perché si ripete. E se si ripete, e si ripete nel solito periodo, e è una cosa puntuale, vuol dire che deve essere in quel modo. Se non cambia mai, non è mai cambiato nella storia, perché dovrebbe cambiare adesso? Perché abbiamo la tecnologia per guardare cosa? Per guardare meglio la Luna? Sì, vediamo la Luna, non si vede nessun satellite, ci dicono che ci sono 13.000 satelliti nello spazio, però quando c'è la superluna e la guardiamo non si vede nemmeno un satellite. Considerato che tutti i cambiamenti che ci sono, cioè quante cose dovremmo cambiare se la Luna si allontanasse dalla Terra davvero 4 cm, o se qualcosa davvero si spostasse diversamente da come è sempre stato. Un istante ripetuto nel tempo diventa eterno. È questa la libertà. Poi certo cambia di intensità, a volte più forte, a volte meno forte, ma è sempre quel fenomeno c'è sempre. Di cosa ci stupiamo? Se sappiamo che arriva un uragano il 14 febbraio e tutti gli anni si ripete, magari non è il 14 ma è il 15, è uguale, è un ciclo che si ripete tutti gli anni, a volte magari è più forte, a volte è meno forte, ma è comunque una cosa che è una ripetizione che continua a ripetersi all'infinito e non cambia mai. E se non cambia mai, ogni anno la Luna si allontana dalla Terra di 4 centimetri. Quindi se io ora vado a cercare su Google quanto è distante la Luna dalla Terra, mi dice che è 384.400 km. Mi dice anche la densità. Come fanno a sapere la densità? Non ne ho idea. Densità, come fanno a sapere quanto è denso? Che ne sanno che c'è dentro? Va bene, 384.400 km. Questo è il 5/1/2018. Va bene, il video dove dice quanto è distante la Luna e che si allontana di 4 cm ogni anno è, penso, di almeno 10 anni fa, credo, se non di più. Quindi, e quanto misurava lì la distanza? Sentiamo. Ed ecco il risultato. Al momento la distanza della Luna è di 393.499 km, 257 metri e 798 millimetri. Quindi si è avvicinata di 9.000 km. 9.000 km. Quindi da una parte mi fanno vedere e mi dicono una cosa, dall'altra, se vo' a cercare, me ne dicono un'altra. E la verità? Qual è la verità? La verità è nascosta, la verità va cercata. Ti dicono che la Luna è lontana milioni di chilometri, che il Sole è una gigantesca sfera di fuoco che brucia, ma la realtà è diversa. La realtà è diversa, basta guardarlo, lo vediamo con i nostri occhi. Non c'è bisogno di qualcuno che è dentro una scatola che ci dice a cosa dobbiamo credere e cosa è vero e cosa no, come è davvero la realtà. Si torna lì, crediamo a quello che ci viene detto da una scatola, che è le stesse cose che ci dicono a scuola, e quindi cresciamo fidandoci della scatola, di quello che dice. E quando diventiamo più grandi crediamo a quello che dicono i telegiornali, a quello che dicono i politici, a quello che dicono gli scienziati, perché siamo stati programmati per agire così, per pensare in questa maniera, invece di pensare con la nostra testa. Insomma, come fanno a sapere la distanza ai millimetro della Luna? Perché hanno degli specchi. Con una missione dell'Apollo hanno portato su degli specchi e dice che sono ancora lì intatti. Lo possiamo fare con un'incredibile precisione grazie a uno strumento molto semplice lasciato sulla Luna dagli astronauti dell'Apollo 15. Uno specchio speciale. Pensate, sta lassù dal 1971, ma funziona benissimo. Ora, mica per niente, a parte il fatto che non c'è, secondo la teoria del globo, non c'è un'atmosfera sulla Luna, quindi la polvere e tutto il resto dovrebbe in qualche maniera deteriorare gli specchi, anche se sono specchi speciali, super resistenti, quello che volete, ma non c'è modo di proteggerli da tutto quello che c'è nello spazio. Insomma, la Luna non ha atmosfera, dovrebbe ci casca roba di continuo. Insomma, ci viene detto che casca roba di continuo sulla Terra, però abbiamo l'atmosfera e ci protegge, ma sulla Luna no. Cosa protegge gli specchi? Dove sono quegli specchi? Perché non possiamo zoomare con un satellite che gira intorno alla Luna, o che è sulla Luna, o che è anche nello spazio intorno alla Terra? Zoomami su uno specchio, fammi vedere che ci sono ancora quegli specchi, fammi vedere l'attrezzatura che hai lasciato sulla Luna, il primo pezzo di modulo che è rimasto sulla Luna, dimostramelo. Non c'è modo, non c'è. Perché? Perché dai satelliti cosa ti fanno vedere? Ti fanno vedere qui quarto, quel pezzettino di terra curvato dalle lenti a occhio di pesce, o comunque modificato dai computer in qualche maniera, e fine, sei contento e dici: eccolo, vedi? Ci sono le immagini dello spazio, sì, ma sono fatte meglio nei giochi dei computer. Perché quelle reali mi sembrano finte e quelle finte invece mi sembrano reali? Non ha senso. Vediamo, possiamo vedere i live, mi sembra nel 2014, mi sembra la NASA mise, dato che c'era già un po' di agitazione, la gente voleva un dice, è possibile non avere, con tutti i satelliti ci sono, non avere un, insomma c'è la stazione spaziale internazionale, non avere un 24/7, 24 su 24 immagini del nostro pianeta dallo spazio, che poi non è spazio, è bassa orbita, ma secondo me non sono nello spazio, ne ho già parlato dell'ISS. Comunque, perché ogni ora si stoppa il video? Se andate a cercare, ora penso non ci siano più, quelli che ci sono registrazioni che vanno a ripetizione, non è reale, vengano tagliate anche le interruzioni che c'erano nel live. E come ho detto, quando c'è stato l'elissi di sole l'anno scorso, quello che vediamo, ci fanno vedere dall'ISS, non è quello che dovremmo vedere in quel momento. Comunque tornando ai 24 su 24 della NASA, ad un certo punto dopo un'ora viene interrotto perché ti dicono che vanno, perché è andato dall'altra parte della Terra, nella parte oscura della Terra, e non ci arriva il segnale. Ma com'è possibile che non arriva il segnale? Se ce la fa arrivare sulla Luna il segnale, ce la fa mandare i robottini su Marte. Cioè, abbiamo mandato un robottino su Marte, abbiamo già detto che le foto sono finte, quindi non abbiamo mandato assolutamente un robottino su Marte, però dicono, hanno fatto vedere le foto, le immagini di questo robottino su Marte, preso in giro, penso, in tutti i film e telefilm, come a Big Bang Theory, quando c'è lui, cercatevela la puntata di quando c'è lui, va nello spazio e c'è anche, mi sembra per l'appunto, un astronauta vero lì che recita con loro, e per l'appunto si vede, cioè è fatto meglio lì che le immagini, è fatto meglio a Big Bang Theory delle immagini che ti fanno vedere, che dovrebbero essere reali, che ti fanno vedere in televisione o comunque su internet dalle fonti ufficiali. E oggi vi lascio così, a 4 cm alla volta. Dall'Arcadia è tutto, grazie a Radio Big Word, ciao, alla prossima, da Gabriele.